24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'Eurogruppo straordinario di Bruxelles sulla Grecia. Vi proporremo sul tema l'intervista esclusiva di 24 ore in Europa all'amministratore delegato della Banca Internazionale Unicredit Federico Ghizzoni e vi faremo ascoltare le parole del candidato alla presidenza della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha parlato all'Europarlamento. Andremo anche ad esplorare le differenze tra Italia e resto d'Europa nel settore delle comunicazioni, mentre dello scandalo calcio scommesse italiano si parla persino a Bruxelles. L'Eurogruppo ha affrontato ieri sera in sessione straordinaria la crisi del debito greco. Arrivando a Bruxelles, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha affermato sul ruolo che gli investitori privati devono svolgere nell'ambito del secondo salvataggio della Grecia. La partita è ancora tutta aperta. È naturale che ci sia il contributo dei privati, ma la sua natura è da definire e finalizzare. Comunque la Germania, ha aggiunto, è pronta a dare ulteriori aiuti. Il problema Grecia va risolto ora, così l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni in un'intervista esclusiva a 24 ore in Europa. Ghizzoni ha commentato lo scontro in atto tra Germania e BCE sul debito ellenico. Sentiamo cosa ci ha detto. Credo che in una situazione come l'attuale sia necessario più un approccio volontario che non obbligatorio. Poi mi sembra che la proposta tedesca sia più per un allungamento del debito che non per un taglio del debito, quindi credo che alla fine le due si possono anche conciliare, perché il problema Grecia adesso va risolto, non c'è più tempo per aspettare, quindi credo che con la buona volontà di tutti, incluso i privati, se le proposte sono accettabili, si debba e si possa fare. Il tempo però stringe. E non c'è più margine, l'impressione, anche perché i mercati stanno veramente mettendo il fiato sul collo. Infatti questo è il punto, questo continuo prolungarsi di incertezza sta veramente mettendo in difficoltà tutti quanti, a partire dalla Grecia, che forse non merita questo trattamento. Un default della Grecia avrebbe più costi che benefici, ha affermato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi nell'audizione a Bruxelles all'Europarlamento, che ha esaminato la sua candidatura alla presidenza della BCE. Secondo Draghi, un tale evento potrebbe portare un effetto contagio. Draghi ha aggiunto: non vogliamo ripetere la lezione di Lehman Brothers. Sentiamo un passaggio del suo intervento. La politica monetaria di per sé non è lo strumento migliore per affrontare problemi di stabilità finanziaria. Questi problemi vanno affrontati con uno strumento diverso, lo strumento che si chiama di regolamentazione macroprudenziale. In questo modo le due politiche non sono una in contrasto dell'altra, ma sono due politiche che si complementano. La politica monetaria, assicurando la stabilità dei prezzi, assicura il retroterra per la stabilità finanziaria. Quando l'inflazione è alta, quando le aspettative di inflazione diventano disancorate, i premi a rischio aumentano molto e si creano le condizioni per l'instabilità finanziaria. Quindi la politica monetaria fa il suo dovere. Nel fare il suo dovere però deve tener conto delle esplosioni o degli eventuali accelerazioni che si verificano in vari settori dell'economia. Amministrazione pubblica, negozi, mercati, trasporti. Per la giornata odierna in Grecia si teme una nuova situazione di paralisi in occasione di un nuovo sciopero generale di 24 ore deciso dalle organizzazioni sindacali per protestare contro il piano di austerity e privatizzazioni del governo. Via libera del comitato di gestione che riunisce i rappresentanti dei 27 Stati membri al pacchetto di aiuti d'emergenza per 210 milioni di euro per i coltivatori di ortaggi freschi. Lo rende noto la Commissione europea spiegando che la misura consentirà all'Unione di pagare ai produttori per cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine e peperoni che sono stati ritirati dal mercato dal 26 maggio in seguito alla diffusione del batterio Escherichia coli. Sale intanto il bilancio delle vittime dell'epidemia a quota 37 contro le 36 di ieri mattina a causa della morte di un bambino di 2 anni nella Bassa Sassonia tedesca. E riapriamo ora la nostra pagina economica con la borsa. Ansaldo STS guida il paniere principale di Piazza Affari, che ha segnato un rimbalzo come le altre borse europee, favorito da positivi dati sull'economia USA e dal buon andamento delle aste sui titoli di Stato greci. Il più 4,4% che ha portato Ansaldo ad essere il miglior titolo del FTSE MIB è stato innescato dalle indicazioni delle case d'affari sulle ottime prospettive del settore dei sistemi di segnalazione ferroviaria in cui è impegnata la società controllata da Finmeccanica. Giornata da protagonista anche per le società del comparto auto ben intonato in tutta Europa. Pirelli ha guadagnato il 3% grazie all'attesa di target finanziari in rialzo, Fiat è salita del 2,9%, mentre è in corso il roadshow internazionale per un importante collocamento obbligazionario della casa torinese. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. La Commissione europea ha autorizzato la proposta di acquisizione di Parmalat da parte del gruppo francese Lactalis. Boom dei social network, ma gli italiani restano teledipendenti e a dominare è la TV generalista. Lo afferma nella relazione annuale il garante delle comunicazioni Corrado Calabrò, secondo il quale in Italia le TV tematiche si sono sviluppate meno che in altri paesi europei. Anche in Italia i canali tematici hanno avuto un apprezzabile aumento degli ascolti, più 11%, ma meno che in Gran Bretagna e in Germania. Malgrado tutto, il modello tradizionale imperante della TV generalista tiene ancora, grazie anche alla maggiore possibilità di scelta offerta ai nuovi canali digitali. E i principali broadcaster sono più o meno gli stessi. Da qui l'importanza della messa in gara Beauty Contest di 5 nuovi multiplex di frequenze televisive per il digitale terrestre. Questo ampliamento del pluralismo televisivo è stato reso possibile dal piano delle frequenze approvato dall'autorità. 200.000 studenti disabili, 95.000 insegnanti di sostegno. La scuola italiana è sempre stata all'avanguardia nell'inserimento dei ragazzi disabili, ma ora è arrivato il momento di ripensare meccanismi troppo rigidi. Associazione 3L, Caritas Italiana e Fondazione Giovanni Agnelli hanno elaborato un rapporto e formulato varie proposte, tra le quali l'istituzione di nuovi centri di risorse per l'integrazione già presenti in altri paesi europei. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Diciamo, ci sono tre modelli prevalenti. Uno è quello più inclusivo, che è quello appunto della legge 104 italiana, che è sostanzialmente molto simile a quello che ormai è adottato anche in Spagna. C'è all'estremo opposto invece l'approccio che prevede, diciamo, una forme distinte di insegnamento a seconda del tipo di disabilità, e infine, per esempio, ecco, come le dicevo, quello della Germania, ma anche quello dei Paesi Bassi, e infine c'è un sistema misto che ormai è quasi prevalente, che ad esempio in Inghilterra, in Francia, in Finlandia. Ovviamente poi quello che differenzia ciascun paese è anche l'ammontare di risorse che viene dedicato ad affrontare questa tematica. Per esempio la Finlandia sta ottenendo risultati di successo nell'ambito di un sistema misto, quindi diciamo un po' meno inclusivo di quello italiano, ma come dire, investendo molte risorse sul fronte dell'inclusione dei disabili. Diciamo che però in generale notiamo una certa convergenza nei modelli e anche nella classificazione. Ormai sta prevalendo in tutti i paesi questa classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ICF, che supera come dire, una diagnosi puramente medica, per cui quello che, diciamo, secondo la diagnosi medica, quello che importa è, se mi passo il brutto termine, diciamo, la minorazione fisica o mentale, per andare verso un approccio che è più una lettura dei bisogni, quindi diciamo come una persona funziona nell'ambito scolastico, per casi di ad esempio degli immigrati che arrivano in un sistema scolastico diverso da quello in cui sono abituati e quindi hanno, come dire, delle difficoltà a essere studenti appieno per un periodo, si spera, limitato. Lo sport, era ora che qualcuno si occupasse di queste cose. Noi lo avevamo già previsto qualche anno fa e ora le autorità nazionali e internazionali ne prendono coscienza, meglio tardi che mai. Così il presidente dell'UEFA, Michel Platini, a Bruxelles per un incontro con il presidente della Commissione europea, Giuseppe Barroso, sullo scandalo scommesse nel calcio italiano. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la riunione settimanale della Commissione europea, all'Europarlamento voto della Commissione bilancio sul progetto di bilancio 2012 e Eurostat rende infine noto il dato della produzione industriale di aprile. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, un grazie per l'assistenza in regia a Mauro De Angeli e una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.